saldare il conto e non tornare più in questo albergo di malinconia. L'ultima mosca dell'estate lassù, che resta sola senza compagnia. La collezione assurda dei miei no, in una scatola di dolci amari, al banco degli errori usati venderò. A questo punto non mi resti che tu, che ti precipiti nel mio silenzio e come un'aquila mi porti più su, così lontano da ogni pregiudizio. Per questi due bottoni da Pierrot, per i tuoi occhi di ragazza sola, in questa immensa seta nera io sarò. Sei viva tu che sei concreta, perché non resti solo un segno sul guanciale di questo sogno, di questa cometa. Perché stanotte sembra tutta mia, un universo a stelle di stagnola, nel cielo perso dei